e Bari. Rubrica diagonale di approfondimento. Una produzione Fango Radio. È una edizione di Erbario abbastanza straordinaria che facciamo in diretta su Fango Radio e per la quale mi trovo a fare duplicemente e nonché malamente gli onori e oneri di casa duplicemente perché qui siamo sì a Fango Radio, ma vi porto anche i saluti del Centro di Documentazione di Pistoia, grazie al quale succedono da molti anni molte belle cose, ma ora non è questa forse la sede per approfondirla troppo. Ma appunto con le edizioni del Centro di Documentazione di Pistoia è uscita da pochissimo, nel mese di ottobre, l'ottavo numero della rivista Memorie per Domani, che è co-diretta da Antonio Benci, che è qui con noi, che salutiamo. Ciao Antonio, se ci sente. Buongiorno, buon pomeriggio anzi. Buon pomeriggio a te, grazie per esserci. E insieme ad Antonio c'è anche con noi Gabriele Proglio, che forse anche lui ci sente. Ciao Gabriele. Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a te, a tutte e a tutti. Ciao e grazie anche a te per essere con noi. Gabriele è ricercatore di storia contemporanea presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che è in Piemonte, poi magari ce ne parli meglio perché se ti va. È con noi in quanto diciamo autore di fresco di un importante storia orale del G8 di Genova, I fatti di Genova, una storia orale del G8 che è uscita da poco per Donzelli, che per l'appunto i fatti di Genova 2001 sono il tema di questo, del numero della rivista Memorie per Domani, il numero monografico dedicato per l'appunto a Genova nel ventennale di quel tragico G8, ecco, diciamo. E per l'appunto ne approfittiamo insomma della disponibilità di Antonio e Gabriele per riprendere un po' il filo di quel momento con questi strumenti molto, come dicevo prima fuori onda Antonio, molto, molto pratici, insomma, sia di questa rivista e sia di questo studio importante, di questa storia che ha ripercorso Gabriele col suo volume. E quindi mi taccio subito e vorrei subito dare la parola ad Antonio, se è d'accordo, al quale appunto così rinnovo i complimenti per la qualità di questa rivista, di questo numero in particolare, e che appunto si può immaginare uno strumento veramente utile sia per chi, come dire, abbia già attraversato quel momento e quei fatti, magari per chi c'era proprio, ma anche, direi, forse soprattutto per chi non conosce quella storia, perché così anagraficamente c'è anche chi non la conosce veramente questa storia di 20 anni fa, e che tante conseguenze ha portato sul nostro presente. E quindi non so, Antonio, se hai voglia di fare un po' intanto un racconto di questo numero di Memorie per Domani, un po' dei suoi contenuti intorno a questo tema. Sì, diciamo che quest'anno noi come Memoria per Domani, anche se è una cosa che facciamo di rado, però è anche giusto proprio perché abbiamo una storia un po' diversa, diciamo, dal consueto. Dicevo, abbiamo pensato di dedicare due numeri a due anniversari. Il primo erano i 150 anni della Comune de Paris, del Comune di Parigi, e poi i 20 anni da Genova. E in entrambe le pubblicazioni abbiamo appunto cercato di essere da una parte dare una corretta divulgazione rispetto a quello che sono due esperienze naturalmente molto diverse, perché sono in periodi, in epoche completamente diverse tra loro, anche se hanno come sfondo un conflitto, diciamo, sociale e politico in due momenti cruciali del XIX e XXI secolo. Dicevo appunto divulgazione, ma anche approfondimento, cercando di dare dei suggerimenti, delle guide a chi volesse accostarsi a questi argomenti, sia chi ne conosce comunque per i suoi studi o per le sue, così, per il suo passato, li ha conosciuti, ma anche chi non avesse avuto mai, diciamo così, l'occasione di approfondire questi temi. Su Genova noi siamo, come dicevo prima, un po' partiti in ritardo, ci siamo trovati, diciamo così, in una situazione di conflitto con un numero abnorme di testi, volumi, memorie, che, come dicevo prima fuori onda e ho anche inserito, diciamo, nel mio editoriale, rischia sempre, per chi si avvicina anche per curiosità in una libreria o anche online, diciamo, rischia di trovarsi Hobsbawm accanto a Vespa, voglio dire, ovviamente sto facendo una battuta, però di fondo la guida, diciamo, della nostra riflessione su Genova doveva essere in primis quello di indicare alcuni volumi che fossero diversi tra di loro, che avessero una connotazione particolare, che cogliessero un aspetto forse non così, diciamo così, comune, nel senso che andasse incontro alle esigenze, alle voglie della massa, diciamo così. E quindi siamo partiti dal volume della Lanfranco, che vede il punto di vista femminista, all'ottimo lavoro di riepilogo giornalistico, ma fatto bene, perché anch'io sono storico, ma io non ho niente contro i giornalisti, nel senso che, come tutti i lavori, c'è chi lo fa bene e chi lo fa male, quindi non è che bisogna avere la spocchia che a volte nell'Accademia c'è per i giornalisti rispetto agli storici. Mario ha fatto un ottimo lavoro di ricostruzione storica e è stato un lavoro anche apprezzabilissimo, perché pur essendo lui, come anche Gabriele, insomma, testimone attivo degli eventi e non un osservatore en passant, ha fatto un libro a ciglio asciutto, quindi chapeau. Non abbiamo potuto, ahimè, intervistare l'autore, perché nel frattempo è scomparso quel testo di Leo Grande, riedito dalle edizioni dell'Asina, quindi Cesare Pianciola ha intervistato Niccolò Villa, che è l'editor delle edizioni. Abbiamo poi dato visibilità al libro di Adriano Silingardi, che è molto, molto particolare, perché racconta la storia di una famiglia durante le giornate, una famiglia genovese durante le giornate a Genova. E infine il libro di Gabriele, che, come dicevo prima fuori onda, e non lo dico perché è qui presente, perché mi ha offerto una cena, ma perché lo penso veramente, è un libro estremamente interessante di storia orale, che è una tipologia di storia da trattare non con le unghie, con i guanti, ma con le unghie, i guanti e quant'altro, perché è estremamente complesso, scivoloso, e si rischia spesso di, diciamo così, andare fuori tema, tra virgolette. Quindi questi cinque libri meritavano, a nostro giudizio, una vetrina, e l'abbiamo individuato in Memoria per Domani, dedicato al G8 di Genova. Accanto a questo, In parte anche in questo ambito c'è la rievocazione di Emanuela Massa, che ha curato una tre giorni a Genova, che a cui io non ho potuto partecipare perché per impegni di famiglia ero già da un'altra parte, ma forse Gabriele ha partecipato, non so, forse mi sbaglio, scusami. Comunque sono stati tre giorni di grande interesse a vedere l'uditorio, le persone intervistate, tutte le manifestazioni, e lei ha fatto un riepilogo, che anche questo è interessante perché mostra che gli anniversari possono essere, tra virgolette, gestiti senza retorica. Poi ci sono l'orazione civile di Casalino e una riflessione di Andrea Bagni, che è un vecchio storico collaboratore di Memoria per Domani, che appunto si sono focalizzati più su quello che è forse l'aspetto di cui avrebbe più senso che parlassimo anche oggi, cioè l'eredità di Genova, perché essendo un avvenimento che è stato visto, messo sotto le luci dei riflettori in diretta televisiva, probabilmente conviene interrogarsi molto di più su quello che è il suo portato storico, l'eredità, e volendo anche i rimpianti, perché sono discretamente convinto che molte delle istanze del movimento di allora fossero state, tra virgolette, recepite in maniera, anche se vogliamo ipocritamente, politicamente, in modo un po' peloso da parte delle elite, delle classi dirigenti, forse oggi la situazione sarebbe un po' migliore, Infine abbiamo, come sempre, la traccia bibliografica. Io avevo chiesto ad Antonio Schina di fare un resumé di quanto era uscito, lui ovviamente non mi ascolta mai, e ha scritto tutto quello che è uscito, quindi ci sono 8 pagine, in cui tutto quello che è uscito su Genova è ripreso. E già questo la dice lunga, cioè 8 pagine su un anniversario, siamo quasi all'anniversario del 68 della Rivoluzione Francese, voglio dire. Evidentemente è comunque questo un sintomo, che è un argomento che ha preso, e anche questo è una cosa su cui dobbiamo interrogarci. Infine, poi lascio la parola a Gabriele, abbiamo come sempre, come tradizione di famiglia, nel Memoria per Domani c'è uno spazio relativo alle narrazioni, cioè un omaggio, alla storia non romanzata, ma scritta in modo più discorsivo. Ci siamo interrogati su quello che poteva essere il fatto, l'avvenimento, o comunque il momento storico che poteva avere delle afferenze con Genova. È venuto fuori subito il 68-69, la perdita dell'innocenza. Ci è sembrato una cosa chiara, evidente, istantanea, immediata. Ecco. Quindi questo è un po' l'animus, il corpus di tutto il numero di Memoria per Domani, in cui spicca ovviamente l'editoriale che ho scritto io. Adesso lascio la parola a Gabriele, e appunto può essere, mi permetto di fare un'introduzione io, l'ho già fatta, sarebbe secondo me molto interessante che tu appunto spiegassi non solo il libro in sé, le interviste a chi, come, dove, eccetera, ma anche un po' la genesi, che è stata molto interessante, anche argomento della mia domanda a te. Assolutamente, intanto grazie per l'invito, grazie per questa opportunità di parlare di Genova, del G8, del prima e del dopo, perché come scrive Portelli nella prefazione al libro, un evento che è terminato non è finito, cioè continua a perdurare nel tempo, soprattutto nel caso di Genova. È un evento che viene rimemorializzato anno dopo anno e che spesso ha costruito anche dei non detti. Pensavo prima, Antonio, quello che dicevi, alla questione, a un tema che è risultato centrale, che come storico non avevo compreso appieno, perlomeno non avevo dato una valutazione così netta fino a che non ho iniziato a raccogliere le prime interviste, ovvero l'esigenza di raccontare. Io avevo in mente, la mia idea del ricordo di Genova era di un momento profondamente difficile che, secondo quello che era il mio immaginario, probabilmente poteva portare i testimoni e le testimoni a momenti difficili da ricordare. Alcune di queste avevo in mente prima di iniziare l'intervista, mi avrebbero detto no, guarda, non mi va di ricordare, non voglio rilasciare l'intervista, o come spesso succede in situazioni di stress subite in passato, succede per le guerre, per le migrazioni, succede per le violenze in generale, succede per l'attivismo politico, succede anche per le questioni che riguardano il lavoro, si limita la risposta e quindi un complesso di memorie che vengono mobilitate per raccontare un'esperienza che è molto più ampia ha una risposta molto breve, concisa, poche parole, che non lasciano trapelare quella che è la complessità, e quindi dietro quelle parole spesso lo storico orale, indagando, andando in profondità o con un rapporto di soggettività, riesce, quindi un rapporto intersoggettivo, riesce a recuperare delle memorie che invece prima erano lasciate nel dimenticatoio. E invece no, per Genova quello che mi ha sorpreso inizialmente è stata proprio l'esigenza di raccontare, di raccontarsi. E ho capito solamente andando avanti nella ricerca, ho raccolto oltre 80 interviste, uomini, donne di diverse età, di diverse provenienze, tutte coinvolte nell'attivismo e nella voglia di partecipare al G8, ma con identità politiche differenti. Si va dalla donna in nero, per capirci, a il blocco nero. Metto sempre questi due neri che sono spesso raccontati agli antipodi per dare la dimensione del lavoro storiografico che volevo fare, ovvero di ricostruire idealmente le piazze tematiche, le piazze attraverso le soggettività, e quindi ricostruire quelli che erano i diversi percorsi che hanno portato a Genova. Ecco, tutte queste persone avevano l'esigenza forte di raccontare Genova, e molte di queste mi dicevano: sì, noi vogliamo raccontarla perché quello che è stato detto, e come diceva bene prima Antonio, è stato detto molto, forse è stato il primo evento mediatizzato dell'epoca globale, moderna, perlomeno contemporanea, passato per l'etere attraverso le videocamere e dato in diretta, quindi il sabato per capirci, anche il venerdì le riprese erano in diretta, e quindi chi era a casa poteva vedere il corteo, cosa stava succedendo, cose che oggi per esempio non accadono con molti cortei, quindi anche uno sguardo diretto su quello che succedeva. Ecco, quell'esigenza di raccontare secondo me era dettata da un elemento comune, nonostante i percorsi politici diversi, le esperienze diverse di Genova, ovvero quella di dare un significato a Genova, che può sembrare banale, può sembrare scontato, ma in realtà non lo è. Calcoliamo che Genova arriva da un percorso che inizia a livello globale con Seattle, quindi col primo vertice assediato, e quindi questo movimento che si fa planetario. In realtà anche su questo forse una critica va posta, nel senso che quel movimento raccoglieva soggettività e percorsi differenti, pratiche differenti, ma era concentrato prevalentemente nel nord del mondo, nel nord globale. È vero, c'erano gli zapatisti, è vero, c'era la Via Campesina, è vero, c'erano altre realtà, ma principalmente quello che succedeva nei nord del mondo era appunto l'assedio di questi vertici da soggettività che arrivavano da percorsi precedenti, quindi per l'Italia la lotta al nucleare, la Pantera, dopo il 77, il 68 e prima ancora i partigiani, la resistenza, perché c'è una parte, diciamo, di chi è stato a Genova che arrivava anche da quel percorso lì e che ha vissuto anche quel momento lì. Ma a Genova non c'era solamente la sinistra, quella, diciamo, legata a Rifondazione, unico partito che partecipa in massa al corteo. C'era anche la sinistra extraparlamentare, quindi tutta la parte dei centri sociali, c'erano i sindacati, non quelli di base, non quelli confederali, quelli di base, dai COBAS ai CUB, eccetera. A Genova c'era una parte del volontariato, del mondo della sinistra, diciamo, impegnata nei progetti con ONG e diciamo percorsi legati al commercio equo solidale, ma Genova è stata anche un punto di arrivo per altre soggettività. Penso a quelle cattoliche, che spesso non vengono raccontate. Penso a persone che ho cercato di intervistare, alcune intervistate, lo dicono espressamente, non si ritrovavano in nessuna parte, nessun gruppo, non si definivano dei centri sociali, non si definivano di una sinistra legata a Rifondazione, allo stesso tempo non erano legati al mondo cattolico, insomma erano ragazzi, giovani, che decidono di andare a Genova. Come dice Paola nell'intervista, decidiamo di andare a Genova, sì, perché ci stava a cuore le sorti del mondo e perché la globalizzazione era un tema che veniva declinato dal lavoro ai rapporti tra nord e sud del mondo, dall'immigrazione ai confini, dalle politiche di welfare a quello che poteva essere il ruolo degli OGM, per capirci. Ma anche perché Genova è un punto di approdo per quella generazione, per quelle generazioni, perché, dice Paola, tutti andavano a Genova, tutti e tutte andavano a Genova. Ecco, quindi io ho cercato di raccogliere interviste, e sono oltre 80, nel libro in realtà ce ne sono 54, oltre 80 interviste a soggettività diverse. L'obiettivo era quello di ricostruire le piazze tematiche, quindi i percorsi ideali delle persone che sono state a Genova. Ho preso uno per, nel senso sia di soggettività, quindi dicevo prima, dalla donna in nero rappresentante delle varie aree dei centri sociali, sindacati, anarchici, ambito libertario, equo solidale, black bloc, tutto questo. In più c'è un'attenzione al genere, e quindi ho cercato di raccogliere uomini, donne, a percorsi di genere, e quindi ci sono alcuni percorsi, alcune intervistate che raccontano il loro G8 legato a un percorso femminista, e poi l'età, perché mi interessava anche questo. Genova è stata raccontata come la fine di una generazione, una sola. In realtà a Genova c'erano più generazioni. Questo è stato la raccolta del, diciamo, il campione che ho definito. E poi il lavoro su Genova partiva da un rilievo, cioè che Genova è sempre stata raccontata allo stesso modo, spesso allo stesso modo, come violenza che opponeva Black Bloc da una parte alla polizia. È stata mediatizzata, questa violenza è stata raccontata con le stesse immagini ripetute, quindi un reframe della stessa immagine che ritorna e che invade tutti gli spazi possibili per la narrazione, per il discorso, e che concentra l'attenzione sui tre giorni: il giovedì il corteo dei migranti, il venerdì gli scontri e la morte e l'uccisione di Carlo Giuliani, il sabato la grande manifestazione con la Diaz. Anche questa cronologia è dettata dalla modalità di raccontare Genova. A me invece interessava rompere questa linearità del racconto e andare a ragionare in termini di memorie. Quindi, dal punto di vista della storia orale, la metodologia applicata a questo caso di studio e la metodologia in generale della storia orale dà degli spunti sul come procedere, ma è stato questo un passaggio fondamentale, perché avevo l'esigenza di rompere una memoria che era raccontata attraverso la visualità, quell'unica visualità. E quindi mi sono inventato quest'idea della metafora. La metafora è legata alla memoria, è un elemento fondamentale è una forma della memoria, se vogliamo, no? La memoria prende forma e viene descritta dalle metafore. Questa metafora è la metafora del viaggio. Quindi il libro è organizzato con un primo focus e un primo capitolo sulle partenze, quindi la presentazione delle soggettività delle persone, gli ideali che li portano a Genova e le portano a Genova, un secondo capitolo che invece riguarda i giorni di Genova e un terzo capitolo che riguarda i 20 anni successivi, perché anche questo, il dopo Genova, è qualcosa che era importante interrogare, e ritornando a quello che dicevo prima, era necessario, ma proprio per gli intervistati, la necessità degli intervistati e delle intervistate era dare un significato a questi 20 anni. A che cosa è successo? Qual è l'eredità di Genova? Che cosa si è lasciato a Genova dopo il 21 luglio e che cosa invece le persone hanno portato con sé? Esatto, e infatti se posso, Gabriele, ti volevo proprio, ricollegandomi a questa cosa che hai detto adesso, cioè forse appunto nelle interviste, nei colloqui che hai avuto già sarà emersa senz'altro tentativo di capire da dove si può ripartire, da cosa si può recuperare in questo strappo che c'è stato, insomma, sia appunto sul piano non soltanto, cioè anche sul piano simbolico, ecco, come ricordavi, è chiaro, viene, come dire, facile mettere vicine Genova 2001 e l'11 settembre, come ricordavi prima. E ecco, però, per esempio, rifacendosi all'intervento di Andrea Bagni sulla rivista Memorie per Domani, per esempio, Bagni ricorda, sì, c'è stata Genova nel 2001, però per esempio già l'anno successivo a Firenze c'era il Social Forum europeo, l'anno ancora successivo c'erano grandi manifestazioni contro la guerra in Iraq, insomma, c'era, per l'appunto non si è concluso lì, ecco, quel tipo di movimento. E ricorda però anche come il decennio successivo, quindi questi ultimi 10 anni, dal 2011 a oggi, diciamo, abbiano, lui dice proprio, ulteriormente desertificato la società. Ecco, però, appunto, nell'oggi magari vediamo comunque un qualcosa che sembra sano muoversi, si pensa ai Fridays for Future, si pensa ai nuovi femminismi, si pensa ai lavoratori della GKN in Toscana, per esempio. Ecco, secondo te, Gabriele, secondo Antonio, anche se hai voglia anche tu di aggiungere, ecco, da dove si riparte? Da dove ci si si può muovere, come dire, dopo questi 20 anni? È una bella domanda. Spesso le presentazioni mi viene posta soprattutto dalle generazioni, diciamo, più lontane dalla mia, cioè dai ragazzi proprio dei Friday for Future, oppure di attivisti molto giovani. ed è difficile dare una risposta, se non quella che il problema sta proprio nel non aver dato dei significati e non un solo significato a quei giorni. Ne parlo in termini storici, ma anche politici. Cioè, la violenza subita è stata talmente forte e non è stata problematizzata dal punto di vista politico, se non in termini di repressione, se non in termini di eccesso della, diciamo, dell'azione delle forze dell'ordine, se non piani premeditati, penso alla Diaz, per reprimere e rompere un movimento. Ecco questo, quindi il tema repressione. Però difficilmente invece si è dato un valore o dei significati a quel movimento. E questo è un problema, è un problema secondo me centrale, perché quando si storicizza un movimento va visto nelle diverse sfumature, da punti di vista differenti, con sguardi differenti. Quello era un movimento che faceva paura. Prima Antonio diceva che a un certo punto in qualche maniera furono le stesse istituzioni a parlare dei temi legati alla globalizzazione. Esattamente, cioè una cosa che non si ricorda è che a un certo punto l'indice di popolarità di Berlusconi, salito in, diciamo, diventato presidente del Consiglio poco prima del G8, scende in maniera così netta che lui stesso a parlare di G8 e parlare di globalizzazione, e lui stesso che inizia a dire, e questo si vede nelle sue dichiarazioni, a dire qualcosa del tipo, ma anche noi siamo per una globalizzazione giusta. Ora, chiaramente lui lo faceva in forma di un, come posso dire, aveva le sue necessità di riconquistare un consenso e anche di un G8 imminente. Però quello era un movimento che realmente poteva e ha creato una conflittualità molto forte. Lo ha fatto in modalità molto differenti dall'oggi, dei Friday for Future, per esempio. Un movimento che era globale, che teneva insieme soggettività molto differenti. Penso all'idea del social forum, dove confluivano percorsi che altrimenti non si sarebbero incontrati, e quello che succedeva al di fuori dei social forum. Quella è una forma politica, secondo me, interessante, non so se è spendibile oggi, ma dà uno sguardo differente, no? Sul gruppo che organizza l'iniziativa, la manifestazione che scende in piazza. Ecco, quello è qualcosa, è un'invenzione politica, è qualcosa che con critiche e elementi positivi, però questa è una differenza. Quindi si andava tutti a Genova con percorsi differenti, con pratiche differenti, perché era chiaro che c'era una parte che aveva delle pratiche di piazza che non erano non violente, ma che erano legate alla pratica diretta, o perfino al riot, allo scontro con la polizia, o come nel caso dei Black Bloc, all'attacco dei simboli del capitalismo, della globalizzazione, eppure si arriva a Genova. Insomma, con mille problemi, discussioni sul tema violenza non violenza, ma quello che è interessante è che si cerca di tenere insieme tutte le parti del movimento. Oggi mi sembra invece, e questo è il rilievo più politico, che ci sia una disgregazione, una parcellizzazione, un'atomizzazione delle soggettività, e che ogni piazza sia costruita e ricostruita da una singola sigla o da pochissime sigle. Forse quel mettere insieme, nonostante le differenze, o forse anche proprio per le differenze, è un elemento dal quale credo si possa ripartire, ecco, o perlomeno una riflessione dalla quale si potrebbe ripartire. Parlando per esempio di ambiente, di ecologia, di natura, di mondo, di quello che è il futuro. Antonio, se vuoi, mi viene in mente che un'altra voce che riporti nella rivista, che mi risuona insomma con quello che sta dicendo Gabriele, è proprio il, come dire, una frase di Monica Lanfranco che dice: la riconversione ecologica non è solo occuparsi di ambiente, ma agire sulla cultura individuale e collettiva. Ecco, questo potrebbe essere, insomma, mi risuonava un po' con questo appello, diciamo, di Gabriele, non so. Ma guarda, questa è una cosa abbastanza consolante perché io rifletto su una cosa che molti dei movimenti post Genova sono dei movimenti del no. Vabbè, forse dico una cosa così, Friday for Future è per il futuro, però al di là di questa che è un discorso semantico, io penso che uno dei limiti del Genova Social Forum e comunque di quella galassia abbastanza composita è che forse era troppo composita e, ahimè, nel mondo di oggi, nella società liquida, a maggior ragione dopo il 2001, dove è entrato in campo una cosa fondamentale che ci dimentichiamo sempre di dire, che è questa cosa qui, cioè i telefonini, i social, una sorta, come diceva Gabriele, un'atomizzazione che è determinata dal fatto che i rapporti umani sono inevitabilmente cambiati da allora a oggi, perché sono su delle, diciamo, delle vie, dei sentieri, dei tragitti, delle strade che non sono più fisiche, non sono più di aggregazione di persone, ma sono delle strade virtuali. Quindi, quanto dice Alan Franco forse noi non possiamo effettivamente riuscire a convogliare le energie in un movimento organizzato per riuscire a coagulare un consenso. Basta vedere la fine che sta facendo il Movimento 5 Stelle, voglio dire. Però possiamo smuovere le coscienze. Allora, una cosa molto semplice, pensando a 20 anni fa, la percezione dell'uomo medio sull'ambiente, cioè sulla tematica di rispetto dell'ambiente, era più alta o più bassa? Pensate a una cosa da nulla, guardate 10 spot pubblicitari, almeno 6 o 7 parlano di sostenibilità, di ambiente, che poi le elite, il potere, insomma, alla fine della fiera se ne freghi, ma non importa, perché l'aria che respiriamo, l'aria che c'è in giro, non dipende da loro, ma dipende dai cambiamenti di clima culturale. Allora, anche movimenti come quello di Genova possono sicuramente essere destinati al fallimento per il solo fatto di essere troppo compositi e avere contro di loro, e lo abbiamo visto, un gruppo più ristretto, più piccolo, ma estremamente più potente. Però smuovono, come dice giustamente Alan Franco, le percezioni che noi abbiamo del nostro presente, della nostra vita, e l'idea soprattutto di futuro che noi possiamo avere. Quindi questa è forse è eccessivamente consolatorio, però è quello che gran parte dei movimenti sociali hanno determinato. Basti pensare, e ritorno al discorso di Memoria per domani, la narrazione sul 68, il 68 quello ha creato o è stato creato da, ancora non abbiamo capito, cioè se è figlio di un cambiamento culturale o se, diciamo, da in là a un grande cambiamento culturale, ma il deposito, diciamo, l'eredità del 68 sono tutte le conquiste fatte negli anni 70, ma non tanto a livello della legge sulle URSS o sull'aborto o quant'altro, ma per il fatto che quella gente, i nostri padri, si erano convinti che quella era la strada da percorrere. Quindi questo mi sembra di seppure diciamo nella limitatezza del tempo che abbiamo a disposizione, che possa essere un'eredità molto positiva che dobbiamo mettere nel giusto conto anche di un'esperienza tragica come quella di Genova. Sì, ecco, senz'altro mi veniva in mente che, ecco, un altro tema che poi negli anni per molte ragioni diverse, insomma, come dire, era al centro di quello che succedeva a Genova e poi è passato in secondo piano, è quello, come dire, che racconta il fallimento dei grandi leader, per l'appunto, come lo ricorda Giovanni Mari sulla rivista, che appunto ricorda come questi i grandi della terra si fossero dati appuntamento al G8 con un'agenda scarna e drogata di slogan. E ecco, sarei curioso di sapere da Gabriele, nel suo percorso di interviste per il volume sui fatti di Genova, ecco, come le persone con cui hai avuto a che fare hanno raccontato il ricordo, ma anche meglio il presente, diciamo, del comportamento dei grandi leader, delle responsabilità, oltre appunto che delle forze dell'ordine, anche proprio dei potenti che avrebbero, come dire, per l'appunto avrebbero dovuto prendere delle decisioni, ecco, come cosa è emerso dal tuo percorso attraverso queste testimonianze, questi ricordi? Allora, sul prima, sui giorni che precedono Genova, la preparazione, le partenze, il capitolo dedicato alle partenze nasce e si fonda, perlomeno si crea, l'idea del essere a un appuntamento con la storia. E questo, secondo me, succede ogni qualvolta si passa quello scoglio della critica della rappresentanza, cioè quando a un certo punto si va oltre alla delega, alla questione della delega, e si inizia a ragionare in maniera collettiva. Questo non parlo solamente di Genova, ma parlo più in generale, diciamo, degli ultimi due secoli di storia in Europa e non solamente in Europa. Quando si inizia a mettere realmente in discussione i rapporti di potere e si dice ok, adesso decidiamo noi qual è il futuro, o perlomeno lo vogliamo determinare, vogliamo avere voce in capitolo, ecco, quel passaggio che, diciamo, tutto il movimento operaista o post-operaista legava alla critica della rappresentanza, alla critica della delega. C'è un passaggio lì successivo che è quello di ora definiamo insieme qual è il futuro che vogliamo. E quel mondo futuro, un altro futuro è possibile, un altro mondo è possibile, in realtà sono tanti mondi che slogan che porta a Genova con tanti futuri, dove però la critica agli otto grandi, al WTO, alla Banca Mondiale è netta, è totale, e senza appello. Non c'è dubbio che le responsabilità siano loro. Poi ci sono i giorni del G8, e qui la violenza è centrale, la violenza subita, tanto che a livello figurativo l'elicottero che gira sopra le teste dei manifestanti e delle manifestanti è l'elemento comune che tiene insieme tutte i racconti. Questo per dire che cosa? Che quel controllo e quella polizia ovunque che controlla, che vede, che sa agire e che mette sotto scacco, perlomeno cerca di farlo, i manifestanti e le manifestanti, è qualcosa che è percepito da tutti, è un simbolo, è un segno, una metafora di quei giorni. Sono le varie declinazioni, chi riceve violenza diretta, chi viene arrestato e viene portato a Bolzaneto, chi è alla Diaz, chi è alla Pertini, chi riceve delle cariche, chi come Titta al corteo del sabato scappa da cariche della polizia insieme ad altre compagne, e si trova insultata e poi cade in un rischia veramente di farsi molto male, cade giù da un piano, vola per 4-5 metri, insomma succede un po' di tutto, quindi queste sono le testimonianze dirette di quello che succede, senza però mai cadere né nel vittimismo, e questo era un elemento centrale della mia ricerca, né dalla parte del vittimismo, quindi di vedere la violenza come qualcosa subito, perché appunto Todorov racconta bene, dice la vittima può ricordare solamente da vittima, né del reducismo, no? Cioè di chi da reduce racconta in maniera enfatica io ho fatto lo scontro e lo racconta alle nuove generazioni in maniera mitica, oppure dall'altra parte reduce chi ha subito, ha combattuto una guerra. Ecco, non c'è questo, però c'è, è chiaro come della polizia, delle forze dell'ordine, dalle memorie, emerga un altro tratto di condanna. Ma quello che mi ha colpito di più, ed è chiaro che chi arriva dal percorso, diciamo, dell'area extraparlamentare o comunque che ha quel DNA politico, mette già in discussione il ruolo delle istituzioni. E invece in moltissime persone il dopo Genova significa la perdita di fiducia nella possibilità di cambiare da dentro la situazione attraverso le istituzioni. E qui c'è un passaggio ulteriore. Se prima c'erano alcuni soggetti che erano prima del G8, alcuni soggetti che erano titolari, diciamo, della perdita di fiducia nel cambiamento, e quindi si va a Genova per manifestare, a Genova i soggetti sono chiari, chi ha una divisa, perché picchia, perché non rispetta, perché umilia, eccetera, il dopo è definito da una perdita di fiducia nei confronti delle istituzioni per chi arriva da un percorso non extraparlamentare, quindi per esempio alcuni militanti di Rifondazione, alcune persone all'interno dei sindacati di base, altre persone che arrivano a Genova senza nessun tipo di formazione politica o attivismo precedente, si capisce che c'è un sistema molto più ampio che non riguarda solamente il WTO, la Banca Mondiale, i partiti coinvolti della destra, ma che è molto più ramificato. Ecco, queste secondo me sono le prese di coscienza del prima, durante e dopo. E ritornando a quello che dicevi prima, secondo me anche qui è necessario dare un valore. Molti degli intervistati lo danno, perché capiscono, dicono per esempio, nonostante tutto quello che è successo, per noi Genova non è la fine. È la fine magari del movimento, è la fine di quelle che potevano essere proteste. Hai citato prima Firenze, che però è già una manifestazione contro la guerra, quindi quel movimento che si trasforma contro la guerra dopo l'11 settembre, è la fine di percorsi collettivi e comuni, condivisi perlomeno, ma non è la fine delle soggettività, dei percorsi singoli. E quelle persone mi hanno colpito perché mantengono una forma di resistenza dopo il 21 luglio. quel 21 luglio non è la fine per loro, ma è uno snodo centrale nel quale è fondamentale ripensarsi in un contesto che è completamente diverso. Da quel momento in poi sarà completamente diverso. Mi fa piacere ricordare anche, appunto, Gabriele ritorna spesso questa l'immagine, il racconto e l'immagine stessa dell'elicottero, e mi fa piacere ricordare che in questo numero di Memoria per Domani c'è una selezione di fotografie dell'archivio di Adriano Silingardi, che appunto sono, tra le quali c'è anche una bellissima foto di questo elicottero che viene salutato, diciamo, in un certo senso da un gruppo di manifestanti, e insomma danno in maniera molto sintetica, credo, il senso proprio di quel momento. Noi abbiamo tempo per un'ultima questione che vorrei porre ad Antonio, ma anche a Gabriele, quindi a entrambi chiederei se vogliono appunto nella rivista lo ricordava prima Antonio, c'è una rassegna bibliografica a cura di Antonio Schina che appunto è più di una bibliografia, perché contiene anche lavori su questo, usciti quest'anno su Genova, di formati molto diversi, quindi ci sono anche siti, lavori teatrali, video, podcast, mostre, eccetera. Ecco, vorrei chiedere a entrambi se volete, in chiusura, di proprio un consiglio quasi per districarsi in questo filo di opere che si sono, chiaramente a partire da quella di Gabriele, di cui appunto oggi abbiamo avuto così un saggio. Antonio, c'è qualche punto di partenza che secondo te è più pratico per qualcuno che volesse provare un po' a rimettere in fila questi... Io da bravo post-democristiano non posso dire un libro o un altro, perché sono tutti indicati nella bibliografia di Antonio Schina. Comunque, scherzi a parte, io inviterei tutti, coloro che vogliono anche farsi un'idea un po' più approfondita, a venire alla presentazione della rivista del libro di Gabriele il prossimo 14 o 21, mi dirà Gabriele quale delle due è la migliore. Sono due venerdì alla Sala Manzini della Biblioteca San Giorgio a Pistoia, e quindi quello è sicuramente uno da segnarsi sul calendario. Sono uscite tante cose, in effetti. Come dicevo prima, alcune più per un omaggio, diciamo, al marketing, approfondimento. Naturalmente le opere che a noi hanno colpito di più sono le cinque per cui abbiamo fatto delle interviste agli autori. Nulla vieta comunque di beneficiare anche della multimedialità e andare a vedere se titoli che si trovano appunto su Memoria per Domani, i podcast, gli open source, i siti internet in cui sono usciti molti, molti contributi. Con una particolare attenzione alle collettanee, perché le abbiamo segnalate, sono uscite parecchi contributi a più mani e a più teste, che è sempre qualcosa che, sia pure sempre più conosciuto dall'editoria storiografica, è qualcosa che però ha sempre il suo perché. Io vi segnalo, e sarò di parte a questo punto, vi segnalo due pubblicazioni che secondo me dal punto di vista storiografico sono interessanti. La prima precede di pochissimo, anche se ho avuto la possibilità di parteciparvi con un breve testo che era, diciamo, che voleva fare da apripista, ecco, mettiamolo in questa maniera, al volume poi pubblicato per Donzelli. Parlo del numero di Zapruder su Genova. Per quale motivo? Perché Per la verità, di Genova se ne parla poco e si parla molto invece della memoria di Genova. Per esempio, attraverso, dal punto di vista metodologico e storico, è molto interessante come utilizzare le fonti di Indymedia, per esempio, per, e quindi le fonti digitali, per una storia di quella parte del movimento, e poi molti altri spunti del genere che riaprono questioni sul come fare storia e come non un'unica storia ma tante storie. E il secondo volume invece, I cerchi della memoria, Genova 2001-2021, a cura di Ilaria Bracaglia, Gabriele Salvatori e Maddalena Tiburzio, con la prefazione di Sandro Portelli. Qui è di nuovo un lavoro di storia orale con delle interviste che sono state raccolte in un contesto particolare, che è quello del Nuovo Cinema Palazzo di Roma, ed è un volume che mette insieme percorsi biografici su Genova, sul G8, e che riapre ancora la possibilità di ricostruire una storia attraverso le storie, cioè dal basso, facendo però ben attenzione a non modellare e non finire in un raccontare le memorie per una finalità politica di Genova. E questo secondo me è fondamentale, proprio perché, aggiungo quest'ultima cosa, uno dei problemi grandi della memoria di Genova è che è una memoria divisiva, giustamente divisiva, ma che ha impedito poi alle singole soggettività di ripensare Genova e dare un significato a Genova oltre al significato politico. È sicuramente politico, ma c'è anche qualcosa di più. Senz'altro, e quindi noi vi aspettiamo senz'altro a Pistoia per riparlarne al più presto e di persona. Il 21, confermiamo allora in anteprima internazionale che il 21 gennaio alle ore, ci riaggiorniamo nel pomeriggio, 17 alle ore 17 a Pistoia. 21 è dispari, quindi facciamo 17 e 21, dai, porta bene. Esatto. Andata. Ci possiamo incontrare di nuovo con Antonio Benci, co-direttore della rivista Memorie per Domani, e con Gabriele Proglio, autore del libro I fatti di Genova, una storia orale del G8, che è uscito per Donzelli, che ringraziamo per essere stati con noi quest'oggi e a cui diamo l'appuntamento a ben presto. Grazie. Grazie molte. Se posso aggiungere solo una cosa in chiusura, il prossimo numero di Memorie per Domani parlerà della paura. Molto bene, e ce ne sarà bisogno. Grazie, è grazie Antonio. Di cui abbiamo avuto, diciamo così, un sentore molto prossimo, quindi delle varie declinazioni della paura. Molto interessante, molto interessante. Hai già qualche anticipazione sui contenuti che ci puoi dare? Beh, sicuramente parleremo del libro che ha fatto Prosperi, che è uscito recentemente, però anche declinato sulla paura dell'altro, il migrante, che è un altro dei temi che forse sono nati da un post Genova mal gestito, la paura all'interno delle religioni, la paura declinata dalla paura della libertà di Carlo Levi. Insomma, ci saranno parecchie chicche. Beh, molto bene, ne attingeremo. Grazie Antonio, grazie Gabriele. A presto. Buona serata, a presto, grazie.